Le 8 di sabato sera, di fronte all'albergo. Non vuole cenare con me? È sicura? Sì, sicura. Sono stanca morta, ma grazie. Ci vediamo domani. Ah, domani è domenica. It is Sunday. Che ne dice di un aperitivo in Piazza della Repubblica? Aperitivo? Aperitivo, yes! Buona idea! Ci incontriamo a mezzogiorno all'obelisco. Scusi, dove? At the... non lo so in inglese. The column in the middle of the square. In italiano si chiama obelisco. Ah, obelisk, yes! Ho capito. Allora, buonanotte. Buonanotte e grazie. A domani.